Ok, allora siamo in diretta con una compagna di Roma che si trova in Tunisia. Intanto, buonasera a te. Buonasera a te e anche a tutti gli ascoltatori che sono adesso in Italia e che possono sentire questa diretta che stiamo facendo qui da Tunisi. Sì. Praticamente io mi trovo qui da lunedì scorso, Ok. sono a Tunisi dove da domenica la Kasbah è nuovamente occupata. Dove, e migliaia di manifestanti ogni notte e ogni giorno dormono diciamo sulla piazza antistante alla Kasbah, presente nel centro dei palazzi del governo. Questi manifestanti chiedono le dimissioni, non soltanto non si accontentano del fatto che Ben Ali sia andato via, ma vogliono che tutti i ministri e tutti quelli che hanno fatto parte della dittatura che vedeva Ben Ali come capo della Tunisia, vadano via. La parola che loro continuano a ripetere è degage, ovvero che quello che sarebbe poi in Argentina, che se vai a todo, Sì. nel senso che loro vogliono un cambio completo e radicale di tutti, diciamo, di tutto lo Stato tunisino. Dopo da questa occupazione ha convocato poi ieri una grande mobilitazione che ha coinvolto più di 150.000 persone che sono scese in piazza solamente qui a Tunisi, sono 150.000, in più si sono unite sette altre grandi città della Tunisia, quindi si parla più o meno di 1 milione di persone scese in piazza complessivamente in Tunisia. Da Sì. ieri praticamente tutte queste piazze continuavano ad essere occupate. Nel pomeriggio la manifestazione si è spostata in Avenue Bourguiba, con una parte che è rimasta comunque a presidiare la Kasbah, dove c'è stato un violento attacco della polizia che ha provocato più di 30 feriti e un ragazzo di 17 anni che è stato ucciso, colpito con dei proiettili da parte delle forze di polizia alla gola, quando i manifestanti, molti dei quali studenti, si trovano di fronte alla sede del Ministero degli Interni chiedendo che si dimettesse l'attuale, diciamo, reggente del governo di turno. Questa cosa ha causato diciamo, una violentissima reazione della polizia che per tutta la notte ha continuato a cercare, a caricare, continuava a sparare sui manifestanti. La giornata di oggi è iniziata con la notizia di questo ragazzo di 17 anni che è stato ucciso e la situazione dopo aver accompagnato con un corteo funebre molto grande questo ragazzo al cimitero, la polizia ha attaccato il corteo, ha attaccato i manifestanti che si trovavano a continuare, diciamo, a sfilare per le vie della città di Tunisi e si trovavano dalla Kasbah in Avenue Bourguiba, che praticamente è il grande boulevard della città di Tunisi, e la polizia ha avuto un'escalation da ieri a oggi di violenze contro i manifestanti e al momento attuale si riportano circa 20 persone che sono state uccise. La polizia sta continuando a sparare contro i manifestanti. La situazione al momento è molto tesa, continuano a arrivare persone ferite gravemente, continua, diciamo, a essere presidiata, fra le altre cose, la piazza antistante alla Kasbah, in quanto sembra che la polizia voglia entrare anche all'interno di questa piazza e quindi, diciamo, continuare con le stragi di cui questo governo e la polizia è complice. Già abbiamo visto che il 14 di gennaio il risultato della rivoluzione che ha portato alla caduta di Ben Ali ha portato 250 morti, la polizia non si sta fermando, il governo non si sta fermando nei suoi obiettivi, continua con la forza sparando su manifestanti inermi che chiedono unicamente che il degage di tutta questa base governativa e vogliono una libertà totale e dicono indietro non si torna, da Certo. qui possiamo soltanto andare avanti, vogliamo libertà e e uno Stato, diciamo, dove siano i cittadini tunisini ad essere gli attori di ciò che deve essere del loro futuro. E la situazione al momento attuale, come potete sentire anche in sottofondo, continuano elicotteri, continuano spari, e la situazione al momento è questa. Si continua a presidiare, le notizie qui continuano a passare unicamente tramite diciamo stampa indipendente. Soltanto questa sera alcune notizie sono, grazie a alcuni mezzi di comunicazione come Al Jazeera che erano presenti in piazza, stanno uscendo, perché sennò in Tunisia la situazione era assolutamente taciuta da tutti i mezzi di comunicazione che hanno ancora come direttori gli stessi direttori dell'ancien regime che ci stavano, e praticamente nessuno da ieri ad oggi rimandava nessuna notizia di quello che stava accadendo, unicamente tramite i social network in parte e tutta, diciamo, i media indipendenti che si trovano qui in Tunisia. Stiamo cercando di far uscire quante più notizie accadano, anche perché il regime si sta facendo scudo del silenzio completo per continuare a uccidere manifestanti e continuare nella loro strage. Ok, sì, effettivamente anche da queste parti, diciamo, ormai l'unico argomento è la strage in Libia. Ci si dimentica che invece ancora in piazza, appunto, in Tunisia, come ci stai raccontando, la situazione è tesissima. E dunque, intanto volevo capire solo un'ultima cosa prima di lasciarti andare. E, se come si è visto invece quando l'attenzione mediatica invece c'era, l'esercito ha preso una posizione oppure no, di fronte alla continua invece repressione della polizia rispetto ai manifestanti? Allora, l'esercito praticamente continua, anche grazie alla pressione dei manifestanti, ad essere presente nella piazza. Un dato, quello di oggi, ovvero quando è arrivata la notizia che la polizia voleva entrare nella piazza della Kasbah, i militari avevano acceso nuovamente i loro furgoni per allontanarsi dalla piazza, i manifestanti hanno levato le chiavi dei furgoni ai militari, che quindi si sono trovati, diciamo, obbligati, o comunque, diciamo, gli è stato fortemente consigliato di rimanere nella piazza a difesa dei manifestanti. Nella stessa giornata di oggi, nel pomeriggio, dei camion dei militari, diciamo, facevano scudo contro gli spari della polizia contro i manifestanti. Diciamo che sì, questo dato nel quale si trovano contrapposte militari e polizia qui in Tunisia continua a essere presente, questo soprattutto per una grande pressione da parte della popolazione verso i militari, continuando a domandare e a esigere dai militari che loro siano parte in causa di tutto questo, che loro siano con la popolazione che sta lottando per la loro libertà. Va benissimo, allora io intanto ti ringrazio per questa corrispondenza, adesso la monteremo e cercheremo di diffondere appunto quello che a quanto pare i media internazionali si rifiutano ancora di raccontare. E niente, allora speriamo nella vittoria del popolo tunisino, che appunto ancora non è raggiunta, ma sta semplicemente chiedendo quello che chiedeva quando l'attenzione era più alta da parte di tutti e di tutte, ovvero che il popolo tunisino possa determinare e autodeterminare il proprio futuro. Va benissimo, noi ci teneremo in contatto anche nei prossimi giorni e ti ringraziamo e porta ovviamente un abbraccio solidale a tutte le persone che ti trovi intorno. Ok. Va bene? Un saluto a tutti e sì, appunto, e comunque anche dal popolo tunisino, diciamo, saluto a tutti quelli che sono i mezzi che stanno rimandando le informazioni di quello che sta passando in queste piazze, l'attenzione sul fatto che ci fossero dei media indipendenti qui nelle piazze, diciamo, li rende molto più, non so, dal loro punto di vista molto più sicuri sul fatto che le notizie comunque circolano. Loro hanno qui un'organizzazione, in realtà, nel poco che hanno, fantastica rispetto anche alle notizie che cercano di far girare con i mezzi che loro hanno. Quindi la situazione, diciamo, è una situazione che comunque vede migliaia e migliaia di persone che ancora presidiano le piazze e si trovano all'interno, diciamo, di città come appunto Tunisi, Sfax, Sousse e altre città della Tunisia. E loro una cosa che dicono è: noi non faremo mai un passo indietro e non rinunceremo, diciamo, alla nostra libertà a nessun costo. D'accordo, e quindi da qui noi cercheremo invece di fare quello che è possibile fare da Roma e dintorni, e questo lo puoi riportare anche come voce, insomma, il supporto ci sta e continuerà ad esserci, quindi restare in contatto, diciamo, sicuramente sarà garantito ed è il minimo sindacale per questa situazione, d'accordo? Va bene, allora, okay. Un saluto a tutti e a tutte. Un abbraccio a te. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.